Partirei anzi con la storia di Gabriele da Firenze che dice: sto cercando di vendere casa da oltre un anno, non ho avuto un'offerta. Il prezzo concordato, beh, dipende con chi, di quanto deve essere abbassato. Intanto torno per un attimo a Luca Dondi. Firenze è una delle grandi città urbane monitorate da Nomisma. Qua nell'ultimo anno le cose come sono andate? Le cose a Firenze sono andate abbastanza male, nel senso che Firenze è una delle città che dal punto di vista dei prezzi è cresciuta più delle altre nella fase espansiva e quindi prima delle altre in maniera più intensa ha fatto registrare una flessione sia dell'attività che dei prezzi di compravendita. Complessivamente dal picco che è stato raggiunto tra la fine del 2007 e i primi mesi del 2008, Firenze è un mercato